La storia e la memoria di Dino Pesole. Per secoli, come sappiamo, l'Italia è stata suddivisa in una miriade di regni, principati, marchesati, comuni, tutti spesso in guerra tra di loro. Non molto lontano dai nostri confini, un altro paese sperimentava al contrario la pace. Quel paese è la Svizzera, la patria della neutralità, un paese che di guerre ne ha conosciute ben poche. Ne parliamo questa sera con Rosaria Guerra, giornalista che ha scritto un libro insieme a Jacopo Fo, pubblicato da Barbera Editore, dal titolo decisamente provocatorio «Perché gli svizzeri sono più intelligenti». Rosaria Guerra è in studio con noi questa sera. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie. Allora, prima domanda, da dove nasce il tuo interesse per la Svizzera? Il mio interesse per la Svizzera nasce da lontano, perché ho avuto, diciamo, la fortuna di trascorrere tutte le estati della mia infanzia e prima adolescenza a Ginevra, dove avevo dei parenti. E poi questo amore cresciuto nel tempo è stato approfondito da adulta con dei viaggi di lavoro e di piacere, e quando Jacopo Fo mi ha proposto di collaborare a questo progetto ne sono stata entusiasta. Bene, allora ascoltiamo innanzitutto insieme questo passaggio del libro. In Italia, sotto i Borgia, per 30 anni hanno avuto guerre, terrore, assassini, massacri e hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento, pare abbia affermato una volta Orson Welles. In Svizzera hanno avuto amore fraterno, 500 anni di pace e democrazia. E cosa hanno prodotto? Gli orologi a cucù. Un punto di vista che forse andrebbe rivisto. Incastrata tra le Alpi, divisa in cantoni di lingue e tradizioni diverse, la Svizzera non è semplicemente la patria di banche, cioccolati e orologi, ma una delle nazioni più prospere del mondo. Effettivamente, vi sono molte prove che durante la Seconda Guerra Mondiale la Svizzera pacifista e neutrale, mentre si manteneva formalmente estranea alla guerra, nei fatti si comportava da segreta alleata dei nazisti, fornendogli armi e munizioni, riciclando l'oro e i gioielli confiscati agli ebrei in contanti, che servivano al Reich per finanziare l'industria bellica. Allora, insomma, Rosaria Guerra, è un luogo comune questo della vera o presunta neutralità della Svizzera? No, non è un luogo comune. La neutralità della Svizzera è un dato di fatto. Gli svizzeri hanno scelto la neutralità già 500 anni fa. L'ultima guerra che hanno combattuto è stata la battaglia di Marignano in Italia contro i francesi nel 1515, in cui sono stati pesantemente sconfitti. Da quel momento in poi non hanno più desiderato combattere. L'ultima guerra nella quale sono stati coinvolti alla metà del 600 è la guerra dei 30 anni, dopodiché si sono tenuti fuori da tutti i conflitti che noi altri europei abbiamo combattuto fino a poco tempo fa, e soprattutto i due grandi conflitti mondiali. Ecco, ora vorrei approfondire un attimo il titolo del libro, che ci propone in modo provocatorio, direi, il tema, l'argomento dell'intelligenza degli svizzeri. Ascoltiamo questo passaggio di una intervista che tu hai rilasciato alla testata svizzera, il giornale in cui appunto gli autori del libro riassumono i contenuti di questa impresa editoriale. Le scelte fondamentali compiute nel corso dei secoli dal popolo svizzero, la multiculturalità, la strenua difesa dell'indipendenza e la neutralità sul piano bellico, possono considerarsi dei segni inequivocabili di intelligenza, una lungimiranza certamente strategica e interessata, ma ponderata e visionaria al tempo stesso. Se la Svizzera è arrivata a collocarsi, secondo l'ONU, al terzo posto tra i paesi più felici del mondo, e al primo posto tra quelli più innovativi per la scienza e la tecnica. Evidentemente, negli ultimi 500 anni, impiegare le proprie risorse umane e finanziarie nella crescita del proprio paese, piuttosto che sprecarle in sanguinose e dispendiose guerre al di fuori dei confini, ha dato i giusti frutti. La pace produce ricchezza, equilibrio sociale e rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà individuali, fattori essenziali per il benessere di un popolo. Dunque pace, neutralità, ricchezza, un'economia basata in prevalenza, direi, sulla finanza. Sono questi i punti di forza allora della Svizzera? Sì, sono questi e non solo. La Svizzera ha, diciamo, come punto di forza anche la sua multiculturalità. Fin dall'antichità il territorio alpino è stato un crogiolo di popoli molto diversi tra di loro per origini etniche, religioni, lingue e tradizioni, ma fin da subito si sono accorti che era importante andare d'accordo, quindi instaurare un equilibrio pacifico tra di loro era fondamentale per poter sfruttare al meglio quel territorio e far crescere un paese prospero e ricco. E a mio avviso gli svizzeri non devono mai dimenticare questa loro ricchezza, che è appunto l'essere multiculturali. Allora, nel libro che tu hai scritto insieme a Jacopo Fossi ripercorre un po' nel dettaglio, direi, la storia di questo paese che è collocato, come dire, al centro dell'Europa, ma in una posizione molto particolare, molto singolare, perché appunto, come appena abbiamo detto, la Svizzera si è sempre tenuta lontano dai grandi conflitti, eppure però la Svizzera intrattiene rapporti politici, economici con tutti gli altri paesi. Allora, a cosa si deve questa presunta ambiguità nell'atteggiamento in politica estera? Ma tornando al titolo del nostro libro, noi partiamo da un assunto, che gli svizzeri sono più intelligenti, forse degli italiani, forse anche di altri popoli, nel senso che hanno saputo coniugare gli interessi del singolo individuo con gli interessi della collettività. Loro hanno un alto senso del benessere comune, e quindi non diciamo assolutamente che gli svizzeri sono più onesti o più buoni degli italiani. Certamente hanno saputo sfruttare al meglio le potenzialità della loro terra, piuttosto imperfetta, tra l'altro, perché è una terra di montagne, di pochissime pianure, e hanno impiegato le loro risorse economiche ed umane per potenziarla al massimo, certamente comportandosi anche non correttamente, come dicevi tu prima, nei conflitti. Allora, nel libro si ripercorre tra l'altro la storia della Guardia Svizzera, sì, che viene istituita nel 1505 e che, leggo, veglia ancora oggi sul soglio pontificio. Ecco, a cosa si deve questa particolarità della milizia svizzera al servizio del Vaticano? Si deve ad un fatto cruento, ossia l'invasione di Roma da parte dei Lanzichenecchi, che erano i mercenari al soldo degli austriaci nel 1527. A quel tempo il pontefice aveva già scelto i mercenari svizzeri come guardia personale, e gli svizzeri si fecero uccidere pur di difendere il Papa, e riuscirono infatti a salvarlo. Da allora, in onore di questo grande coraggio, di questa grande lealtà da parte dei soldati svizzeri, la Guardia Svizzera è ancora oggi a protezione del Papa. Si fa anche riferimento a un certo punto nel libro alla fondazione della Croce Rossa, e in particolare all'azione importante di Henri Dunant, che appunto la creò dopo aver visto, appunto, ce lo vuoi raccontare te, una sì, cruentissima battaglia. Fa riferimento alla battaglia di Solferino, dopo esatto. Aver visto i morti sul campo di battaglia, Dunant cominciò a elaborare il concetto per cui comunque sono esseri umani, da qualunque parte siano schierati, e quindi vanno portati i soccorsi fondamentali a chi rimane sul campo di battaglia. E da allora in poi la Svizzera, in particolare Ginevra, ha avuto e ha ancora una lunga tradizione di organizzazioni umanitarie che si occupano della tutela dei diritti umani in tutto il mondo. Sì, oltre a questo a Ginevra hanno sede molte organizzazioni internazionali, e dunque allora si può parlare di una centralità politica anche nel corso della storia di questo paese, oppure la marginalità che ha scelto la Svizzera fa in qualche modo premio rispetto all'altra caratteristica che verrebbe spontaneo illustrare? Ma io direi che la loro abilità, se così si può dire, è quello di mantenersi dentro stando fuori, cioè sono coinvolti in numerosi progetti internazionali di cooperazione e di ricerca, però conservano e difendono sempre esternamente quella che è la loro indipendenza. E adesso, con l'ultimo voto che c'è stato contro l'immigrazione di massa, chiaramente sono venute fuori queste problematiche, anche perché bisogna rivedere molti dei patti bilaterali che sono stati sanciti con l'Unione Europea. Ecco, in tempi più moderni, perché nel libro si ripercorre la storia della Svizzera, ma si parte da molto lontano, addirittura si ricordano le imprese di Cesare, ma in tempi più moderni come potremmo riassumere, diciamo, almeno nel secolo scorso, il ruolo che la Svizzera ha avuto negli equilibri geopolitici? italiani in particolare? Sì. Allora, se facciamo riferimento all'antichità, come dicevi tu poc'anzi, partiamo da Cesare, quindi la storia del popolo svizzero si intreccia più volte con quella degli italiani. Nel secolo scorso, anzi torniamo ancora un po' più indietro, diciamo 2 secoli fa, gli svizzeri hanno un ruolo fondamentale nella vita pubblica e politica del Regno delle Due Sicilie al tempo dei Borboni addirittura, e giocano anche un ruolo importante nel Risorgimento italiano. Un'ultima domanda riguarda uno dei capitoli del libro, un paragrafo, in cui si ricorda che la Svizzera è anche terra di premi Nobel. Sì. Ma a cosa si deve questa caratteristica? Allora, loro hanno un altissimo numero di scienziati immigrati da tutto il mondo. Se non ricordo male, negli ultimi 60 anni la Svizzera ha ricevuto circa un centinaio di premi Nobel assegnati sia a cittadini elvetici che a studiosi di altri paesi che in Svizzera hanno potuto compiere le loro ricerche. È chiaro che la pace produce ricchezza e prosperità e dunque stabilità politica, sociale, economica, e questo è sicuramente un terreno fertile per chi vuole studiare e ricercare. È indubbio. Bene, allora molte grazie a Rosaria Guerra, che ha scritto insieme a Jacopo Fo questo libro provocatorio e interessante, Perché gli svizzeri sono più intelligenti. Grazie ancora e buona serata. Grazie a voi.